get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, benvenute alla nostra 232esima trasmissione che ha una scaletta molto nutrita e anche un ospite, e non voglio perdere tempo perché sennò ne rubiamo troppo alla trasmissione che ci seguirà, quindi do subito la parola a Lucilla che ci ragguaglierà. Buonasera a tutte, siamo qua in radio, Manuela che è la nostra fonica, Rosina che si aggira, io che sono Lucilla, e con un ospite stasera che è Valeria. Ciao. E Valeria è qui con noi perché ci parlerà qualcosa che accadrà tra breve, un'iniziativa che si tiene tutti gli anni ad Agape, e che sono dei campi, vari campi. In questo periodo, nel periodo di Pasqua, c'è il campo lesbico. E Valeria è tra le organizzatrici e ci viene a parlare del campo di quest'anno. Quindi Valeria, innanzitutto, che cos'è Agape e poi che cosa sono i campi? Allora, Agape è un centro ecumenico valdese che si trova a Prali, che è vicino a Torino, ed è una struttura molto grande con parti comuni, posti letto, ce ne sono un centinaio circa di posti letto. Siamo appunto in montagna, un posto molto bello perché in questo periodo c'è anche la neve, insomma è un posto molto suggestivo, e in questo, diciamo, in questa struttura vengono organizzati vari campi, fra cui appunto questo lesbico, però c'è anche il campo fede omosessualità, c'è il campo politico donne che si tiene tutti gli anni a luglio, e sono campi laici in realtà, anche se sono ospitati dal centro ecumenico valdese, però sono campi laici perché i valdesi permettono di farlo. Insomma, quindi c'è una completa autogestione di chi organizza? Sì, c'è una completa autogestione. Ad esempio il campo lesbico è organizzato da una staff, che siamo 7, e il programma viene scelto da noi, viene organizzato da noi, ed è appunto, diciamo, assolutamente scisso dalla pratica poi religiosa, che non c'entra, insomma. Sì. Quindi, allora, veniamo all'altra parte della domanda, il campo. Quindi ci stai dicendo che tutti gli anni vengono organizzati campi, e hai parlato delle varie tematiche, e nella fattispecie in questo periodo, cioè nel periodo pasquale, quello lesbico, e la tematica come viene scelta? Allora, questo è il nono campo, ad esempio, quest'anno. Ogni anno le persone che lo organizzano pensano a una tematica che possa essere, insomma, di interesse, diciamo un argomento trasversale, tipo l'anno scorso era sul gioco, ce ne sono stati alcuni invece più di taglio politico, oppure sulla rappresentazione delle lesbiche, eccetera. E quest'anno è sul piacere. Sì, infatti abbiamo letto il titolo, che è intrigante, Piaccio, Piacere, Piacendo. E quindi se ci puoi dire qualcosa di più su questa scelta e poi queste tre parole, cioè messe insieme, piaccio, piacere, piacendo. Allora, la scelta è derivata appunto dal fatto di voler fare un campo comunque appunto leggero in qualche modo, come l'anno scorso era stato fatto sul gioco, perché diciamo che viviamo già in periodi abbastanza complessi all'esterno, nelle nostre vite, per cui Questa cosa di ritagliare anche uno spazio di piacere, di gioco, di leggerezza, eccetera. E poi l'idea appunto del riprendersi il piacere, della scoperta e della riscoperta del proprio piacere, e del piacere dell'essere lesbica, quindi la resistenza alla norma, la resistenza, l'autodeterminazione, eccetera, eccetera, viste nell'ottica del piacere. Beh, allora non è tanto sotto forma di gioco, mi sembra che sia anche sotto forma politica, molto politica, sì, no? Politico giocosa. Sì, va bene, nel senso che poi l'ironia, o comunque il saper trovare gli aspetti della felicità e quindi della libertà nello star bene, forse un elemento, no? molto importante, no? Altrimenti. Sì. Allora, se vogliamo entrare un pochino più nell'aspetto tematico, come è strutturato il campo quest'anno? Allora, il campo è strutturato con dei laboratori, degli workshop, degli spettacoli, degli incontri, cioè ci sono vari tipi di attività. E i laboratori sono appunto su vari temi e anche gli workshop, quindi ad esempio ce n'è uno sull'autobiografia, uno sulla danza e il movimento, uno sul piacere della creatività, uno sul piacere della lettura e anche uno sulla box. Ah, che c'era sembrato una cosa carina, un laboratorio un po' di movimento. E gli workshop invece sono uno sulla seduzione, uno sull'immaginario erotico, uno sul piacere dell'autodeterminazione e un altro si intitola il piacere della sorpresa, perché sarà il workshop a sorpresa, nel senso che chi ci va non sa di che cosa si parlerà. Quindi sarà una sorpresa in tutti i sensi. Sì. Poi ci sono degli interventi, quest'anno c'è Maya De Leo, Giovanna Olivieri, Laura Scarmoncin, e poi ci sono la sera, normalmente diciamo che la struttura è la mattina ai laboratori, il pomeriggio gli workshop, a scelta appunto si può andare un giorno a uno, un giorno a un altro, e la sera degli spettacoli. E c'è una dimostrazione su, cioè diciamo un workshop sui sex toys, una sera, un'altra sera uno spettacolo delle Eyes Wild Drag, quindi drag cabaret, e poi uno spettacolo di Mica Male Teatro, cioè Michela Capucci. E poi vabbè, ci sono io e faccio un intervento, li siamo su questo. Va bene, allora bisognerà assolutamente venire per poter vedere che tipo di intervento non mi fai. Niente su, esatto, che cos'è. E poi ci sarà anche uno stand di sex toys, perché già che vengono a presentarci. E poi la domenica c'è tradizionalmente una festa danzante finale. Questo è anche gli anni passati. Il periodo, perché abbiamo detto per Pasqua, ma da quando a quando? Allora, in questo caso è dall'1 al 5, perché il campo lesbico è sempre per Pasqua, cioè sempre in quei giorni lì. Comincia il giovedì pomeriggio, l'arrivo è previsto diciamo entro le 5 del pomeriggio, poi se non arriva per cena però. E si riparte il lunedì dopo pranzo, a pranzo, dalle 1 alle 2 in poi. E diciamo che questi orari contano un po', perché il campo è un luogo dove si sta, cioè si arriva, si sta lì, si dorme lì, si mangia lì, eccetera, e si entra nel flusso delle attività, quindi non è che, cioè, conviene arrivare appunto il giovedì in modo da potersi inserire, poi il venerdì mattina ci si segna laboratori, si sceglie cosa fare e poi insomma diciamo sono 3 giorni e mezzo, 4, ecco. Certo. Allora, sui costi per le partecipanti, perché ci è capitato ovviamente almeno a noi, alcune di noi, di sentire parlare di Agape e di anche incontrare le donne di Agape come te stasera, ma abbiamo incontrato anche altre donne di Agape. E quindi le persone che verranno, quanto dovranno pagare e come dovranno pagare? La curiosità, almeno che a noi sembra interessante da far conoscere, da far sapere alle altre donne, è questa sorta di scelta democratica, come l'abbiamo definita, su quanto poter pagare. Ci vuoi dire qualcosa a questo proposito? La scelta, che poi è una scelta proprio di Agape, del Centro Ecumenico, non solo delle organizzatrici, è di lasciare libertà personale nella quota di partecipazione. Quindi ci sono varie fasce che vanno da un minimo di 125 euro per tutti e quattro giorni. Per tutti e quattro i giorni, comprensivi di alloggio e pranzo, cena e colazione. Le stanze sono da 3, da 4, da 2. E poi si arriva fino a 250, scalando, cioè 125, 138, 155, tenendo conto che le due quote più basse, 125 e 138, sono quote che fanno sì che Agape vada in rimessa. Cioè, in realtà la quota che consentirebbe, diciamo, di pagare i costi effettivi è quella di 155, però comunque viene lasciata la scelta personale o di voler pagare di più, perché magari una se la sente di sottoscrivere un po' il progetto, oppure anche di pagare meno se non ce la fa, non si ha la disponibilità, ecco. E comprendono appunto poi i pasti, c'è anche per vegetariani, e la partecipazione a tutte le iniziative, ovviamente. Quindi questo è qualcosa che ha a che vedere con l'autodeterminazione in senso estremamente positivo, no? Io autodetermino il mio, sì, no, la mia possibilità economica, cioè di pagare e quindi di intervenire, e però anche con un gran senso e di libertà, ma anche di responsabilità, no? Sono tutti i campi, sono tutti praticamente autofinanziati, cioè nel senso, certo. Agape c'ha uno staff che ci lavora, che spesso sono volontari, non sono pagati, volontarie, e cerca di rientrare dei costi, e poi è appunto non c'è nessun lucro e non c'è possibilmente neanche rimessa per loro, visto che comunque insomma, offrono già lo spazio, ecco. Certo. E allora, quindi sapute queste cose che ci sembrano tutte quante importanti e interessanti, come si fa ad iscriversi quindi per poter partecipare? Quanti sono i posti a disposizione, insomma, e quindi allora, i tempi? Allora, i posti, no? Sono in totale 90-95 e per iscriversi c'è un sito, conviene andare sul sito che io lo dico anche, è www.agapecentroecumenico.org. Comunque se poi uno digita Agape Centro Ecumenico viene subito fuori il sito. Lì nella home page c'è il campo lesbico, perché è la prima iniziativa che c'è adesso, quindi, e da lì si trovano insomma il modo per iscriversi. Ci si iscrive, poi viene mandato un bollettino postale, perché si chiede di pagare una parte della quota dell'iscrizione, sì, prima, e una parte invece quando si arriva al campo, in modo da insomma impegnare, sì, il, sì, posto, ecco. Poi si possono anche eventualmente far presente le preferenze, non so se magari si va su che siamo quattro amiche, si può anche far presente e dire magari metteteci in stanza insieme, certo, perché poi tanto la composizione delle stanze viene fatta praticamente da noi, quindi insomma, certo, se lo comunicate. E poi ci sono anche dei numeri di telefono eventualmente per avere informazioni, sempre sul sito. E ci si iscrive fino anche abbastanza avanti, però posti insomma vanno via, ecco, nel senso, quindi insomma, è il caso, diciamo, se... che se si è interessate io lo farei diciamo entro fine mese, con una certa rapidità di giorni. Insomma, almeno comincerei almeno a dare il nome, sì, perché... Sì, sì, va bene. Quindi se non ci sono altre cose, allora l'appuntamento prossimo per questo periodo pasquale, noi che siamo laiche... Assolutamente laiche, no, esatto, guarda, ve lo garantisco, perché sennò io lì non ci sarei mai andata, quindi fidatevi che se lo organizzo io è laico. Allora, noi che siamo laiche andiamo volentieri ad Agape, e allora invitiamo le donne lesbiche che lo vogliano fare ad andare ad andare sul sito, ripetiamolo, www.agapecentroecumenico.org. Andare sul sito, prendere informazioni e quindi iscriversi. Quest'anno io personalmente ci vado, sono Lucilla, va bene? Mi sono già iscritta e sono contenta, va bene? In quanto laica, in quanto laica, e non dire altro, va bene? Andiamo con appunto l'evento di Via Tasso. Sì, Manuela, come avevamo preannunciato nell'introduzione a questa trasmissione, tra poco manderemo in onda la ricostruzione sonora dell'iniziativa svoltasi a Via Tasso, che ricordiamo fu la sede del carcere della Gestapo durante il fascismo, trasformata poi in un museo e per l'esattezza nel Museo Storico della Liberazione. L'iniziativa, che consisteva in una tavola rotonda, è stata organizzata dal gruppo Be Free ed era relativa ad una mostra dal titolo Germania 1942-1945, prostituzione forzata nei lager. A questa tavola rotonda sono intervenute molte donne e purtroppo non tutte potranno avere voce nella nostra trasmissione, semplicemente per ragioni di spazio. Sentirete quindi le voci soltanto di una parte delle relatrici, e quindi le voci nello specifico delle professoresse Paola Di Cori, Fiorenza Tariconi e Monica Cristina Storini. Noi del CLR che abbiamo partecipato abbiamo provato innumerevoli sensazioni e ci è venuta la voglia di condividere con voi questa bellissima esperienza. Bene, io direi adesso di ascoltare un brevissimo stacco musicale e poi partirà la registrazione degli interventi delle tre relatrici. Sì. Grazie a tutti, grazie per la partecipazione a questa tavola rotonda che ha come titolo Il corpo delle donne come bottino di guerra, stupri e prostituzione coatta. È un approfondimento che abbiamo voluto inserire all'interno della mostra che abbiamo organizzato noi di Bifili, Sex, Zwang, Arbeit, National Concentration Lager, la prostituzione forzata nei lager nazisti, perché questo fenomeno, nonostante abbia delle sue specificità, delle sue caratteristiche che emergono poi in maniera del tutto evidente anche dalla mostra, non è un fenomeno isolato. In ogni conflitto, ovunque esso avvenga nel mondo, il corpo delle donne purtroppo si converte in un campo di battaglia, diventa un vero e proprio bottino di guerra, e lo stupro e altre forme di violenza di genere vengono sistematicamente impiegate come strumento di guerra, come un'arma, una strategia per annientare il nemico, per demolire la comunità avversaria, distruggendone l'identità culturale e etnica. Io passerei subito la parola alle altre relatrici. Volevo soltanto ricordare che dal 1 luglio 2002 che la violenza sessuale viene riconosciuta nel diritto internazionale, viene esplicitamente definita come crimine di guerra e come crimine contro l'umanità. Nello stesso giorno entra in vigore lo statuto del Tribunale Penale Internazionale, che riconosce appunto come crimini di guerra la schiavitù sessuale, la prostituzione coatta, lo stupro, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e altre forme di violenza di genere, quindi le riconosce come gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle 4 convenzioni di Ginevra. A questo punto io presento la prima relatrice, che è Paola Di Cori, che è studiosa di culture queer e postcoloniali, ha insegnato e svolto ricerche in diverse università italiane ed estere e ha pubblicato molti saggi sul genere, la storia delle donne e gli studi culturali. È stata anche una delle prime curatrici che ha curato appunto la prima collana sugli studi delle donne in Italia. Grazie. Io tra le tante cose più o meno pesanti che l'esperienza del femminismo, a cui per motivi biografici e professionali sono legata, ce ne sono alcune che ho come avuto in eredità o mi sono rimaste e su cui mi sembra importante insistere in un'occasione come questa, e sono memoria e stereotipi di genere, le ebree nate dopo la Shoah. Sono parole che insieme riassumono molti anni di lavoro, di autoriflessione e anche della mia attività di docente, di studiosa femminista di culture queer, di studi postcoloniali, e intanto mi trovo ancora una volta a avere a che fare con questioni legate a parole che hanno significati molteplici. In un contesto vogliono dire una cosa, altre diverse se il contesto cambia. Le parole sono assorbenti e porose, e con la velocità dei cambiamenti intervenuti nelle comunicazioni, verbali e informatiche che siano, questa capacità di includere nuove sfumature si accresce, aumenta moltissimo. Fino a 30 anni fa memoria significava quasi esclusivamente un'attività legata alla facoltà di ricordare e anche una testimonianza scritta. Al plurale stava a significare principalmente l'esercizio autobiografico. A questi significati, che possiamo considerare di base, quelli che troviamo spiegati in maniera assai simile nei vocabolari di qualche decennio in sono, se ne sono aggiunti altri, dovuti principalmente ad alcuni fenomeni, di cui i principali sono: uno, la nascita ed espansione delle cosiddette nuove soggettività nel corso degli anni 60 e 70, le donne, gli afroamericani, i gay, i e le marginali in genere, gli ebrei, gli zingari, gli immigrati con le loro diverse storie e memorie di provenienza, eccetera eccetera. Due, lo sviluppo di un imponente lavorio storico e teorico sulla memoria, le sue funzioni, i suoi usi diversi nel tempo e nello spazio. Lo studio intorno all'attività mnemonica era stato inaugurato nel 1966 da un grande libro, un capolavoro della storia della cultura del secondo dopoguerra, a firma di una studiosa inglese del Rinascimento, Frances Yates, la quale aveva ricostruito le peculiarità della memoria in età moderna intesa come arte, vale a dire come tecniche e modi d'uso. Ecco, 10 anni dopo, nel 76, il panorama già cominciava a mutare e avevamo un'infinità di nuovi significati attribuibili e attribuiti a memoria. Lo sviluppo delle nuove soggettività, per esprimermi in maniera sintetica, ha portato delle innovazioni nell'attività del ricordare, in particolare nell'universo culturale e politico delle donne. Memoria è diventata una parola impregnata di una forte carica pragmatica e performativa. Secoli bui di silenzi, censure, marginazione, cancellazione cominciano a riempirsi di date, nomi, episodi sconosciuti e io credo che in realtà siamo appena agli inizi, anche se moltissimo lavoro è stato fatto. Un grande esempio mi sembra proprio questa mostra qui ospitata in via Tasso sulla prostituzione forzata nei campi di concentramento nazista. Diciamo quindi che il legame tra memoria, un lavoro che fa e fa fare, e genere, termine complicato da definire, ma in questo caso indica gli esseri umani sessuati, si rivela come una combinazione assai produttiva. Se ho accettato molto volentieri di partecipare a questo incontro, non è stato soltanto per parlare delle peculiarità del linguaggio che usiamo e sui dibattiti tra gender e queer, ma per altre assai poderose ragioni. In primo luogo perché sono ebrea, figlia di ebrei perseguitati dal nazismo, emigranti, e anch'io sono un emigrante, ormai in Italia da molti anni. In secondo luogo perché ho l'impressione che in tutto questo florilegio di iniziative, questa qui, che ospita una mostra il cui contenuto è inequivocabilmente legato alle differenze sessuali, sia una delle poche che si concentra su alcune specificità riguardanti le donne all'interno di quell'immenso abisso nero che è stata l'esperienza della Shoah. Sono naturalmente colpita molto dolorosamente di fronte a questo capitolo che per me era sconosciuto, come già lo ero stata 10 anni fa dal bel volume Donne nell'Olocausto a cura di Dalia Hofer e Eleanor Weizmann, e qui si spiegava quanto le donne avessero avuto sotto il nazismo un trattamento diverso, come svolgevano ruoli sociali diversi e nei loro confronti c'erano aspettative particolari. Sono stati gli uomini all'avvento del nazismo a partire per prima andare all'estero perché si pensava che le donne e i bambini sarebbero stati più al sicuro. Ma così non fu e quindi la percentuale di donne e bambini deportati divenne altissima. Ma anche per le donne ebree nate alla fine della guerra il destino fu diverso che per gli uomini, almeno dal punto di vista della trasmissione di una memoria della Shoah. In questi giorni ho riletto il diario di Anna Frank. È un testo che si dava da leggere soprattutto alle ragazze e sono state le adolescenti e le giovani a esserne profondamente colpite. Per molte era spesso un luogo comune che qualcuno guardandole, a me è capitato spesso, ma anche a altre amiche ebree, dicesse: assomiglia a Anna Frank. Ho ripensato al significato che questo libro aveva avuto per me, adolescente, cresciuta lontano dall'Italia, in un contesto familiare dove la memoria del nazismo, delle leggi razziali e delle persecuzioni era vivissimo. Molte donne della mia generazione, italiane e non, nate nell'immediato dopoguerra, hanno letto da adolescenti il diario di Anna Frank. Si trattava di un testo chiave, era il libro importante, quello che rimaneva impresso per sempre. Veniva dopo quell'altro, Piccole donne di Louise Alcott, letto e riletto pochi anni prima, negli anni dell'infanzia. Le due protagoniste scrivevano e volevano continuare a scrivere da adulte. Jo March ci riesce e diventa una scrittrice. Anna Frank muore a Bergen-Belsen a 15 anni. Nel 59 esce il film con Millie Perkins e Shelley Winters. Io lo vidi allora, a 12 anni, avendo letto il libro. Come Jo March, come Anna Frank, anch'io volevo diventare scrittrice. Ma cosa poteva significare per una bambina ebrea identificarsi con un destino che si interrompe così drammaticamente? Continuo a chiedermelo da più di 50 anni, sapendo anche che non troverò mai una risposta soddisfacente. Pur non potendo rispondere in maniera adeguata a questa domanda, ci sono alcune modalità con cui declinare una risposta e fornire qualche chiave di interpretazione. Ce n'è una in particolare che mi sta molto a cuore, come femminista, come ebrea, lettrice da ragazzina del diario di Anna Frank. Si tratta di una pratica culturale, sociale, politica che riassumo con l'espressione lavorare sui resti. Nel caso del femminismo, lavorare sui resti è per me qualcosa che continua dopo che il femminismo è passato. Una forma di produttività basata sulla manipolazione e rimaneggiamento di ciò che rimane del femminismo, conservandone le parti migliori e rinnovando quelle cadute, così da poter trasmetterlo alle altre generazioni. Di che si tratta nel concreto? Di insistere su quello che a me sembra uno dei compiti più grandiosi che le tante tappe della battaglia per i diritti, il voto, il femminismo poi hanno avviato. Individuare gli infiniti elementi di svariata origine, natura, biologica, sociale, storica, culturale, che concorrono a disegnare il mosaico della femminilità come un insieme di differenze specifiche, alcune centrali, altre periferiche, le quali convivono e coesistono seppure con difficoltà sotto l'ampio mantello di una differenza principale. Qualche decennio di pratiche politiche e di teorie femministe ha infatti prodotto una completa scomposizione, attraversamento critico dei significati che si attribuivano a parole come donna, materno, sessualità, identità, eccetera. Nel corso degli anni 70 sono stati scardinati stereotipi tradizionali, raffigurazioni antiquati, e nei decenni successivi alcune di noi hanno continuato a lavorare su ciò che rimaneva, sui resti. Intendiamoci, il residuo non è uno scarto e neanche un detrito, i residui non sono cumuli di rovine di cui occorre disfarsi, ma un lascito potenzialmente durevole nel tempo. È una eredità preziosa per chi la vuole raccogliere, un impegno di responsabilità a ragionare su ciò che rimane rifiutandone la cancellazione. Il risultato di questo lavoro sui resti non è stato quello di trovare nuove definizioni identitarie, bensì di mettere in discussione l'idea stessa di identità, di sessualità, di maternità, di femminile e di maschile in quanto entità ben definite e definibili, fissate nei loro significati una volta per sempre. Questa attività sui resti vale per le differenze tra le donne, tra donne e uomini, vale anche per come lavorare intorno ai temi della memoria. Che altro è l'attività del ricordare se non una incessante rielaborazione, selezione e valorizzazione di ciò che riteniamo importante da conservare? Cosa sono le tracce se non dei residui che vogliamo recuperare e come? Quindi lavorare sui resti significa essere consapevoli che nelle parole che indicano rifiuti, residui e rovina si suggerisce qualcosa che rimane e anche qualcosa che viene scartato, vale a dire che si indica da un lato un sovraccarico, un eccesso, un di più, dall'altro lato quel che non si assimila né si integra ed è ricacciato fuori. Ancora, e qui il riferimento alla Shoah è forte, inevitabile, i resti sono anche la cenere di qualcosa che non è più. Rileggendo la famosa tesi di Benjamin sull'Angelus Novus di Clay, Franco Rella ha osservato: dato che l'angelo volge la schiena al futuro e guarda le macerie ed è preso da un vento che spira dal paradiso e lo spinge appunto verso il futuro, vediamo chiaramente che questo vento viene dal paradiso stesso, che il paradiso, se c'è, è tra le macerie, nelle rovine. Se dunque c'è una possibilità di salvezza, se c'è una possibilità di verità, questa sta in mezzo alle rovine ed è qui che dobbiamo guardare. Prima parte. Paola Vicori ci parlava di stereotipi di genere, e a questo proposito, per restituire la complessità alla figura femminile, al ruolo che ha svolto durante le guerre, abbiamo voluto invitare la professoressa Fiorenza Taricone, che ci parlerà proprio di donne e resistenza, le madri della Repubblica. Fiorenza Taricone è docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Castrino e presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Comitati Pari Opportunità, e di recente pubblicazione il suo libro Donne e Guerra, Dire, Fare e Subire. Sono quasi sdoppiata in due, nel senso che si sa perfettamente che un buono studio scientifico è basato sul distacco tra chi studia e chi legge i documenti e chi ci riflette sopra, cosa che naturalmente in questa occasione mi è assolutamente funambolica, come le parole per l'appunto. Quindi ho messo da parte, una delle due l'ho dovuta dimezzare, e quindi sarò forse meno scientifica, sarò forse più addentro, comunque mi baso lo stesso dagli studi che ho fatto, perché non credo che sia un tema da cui io non ti possa distaccare, cioè il corpo, cioè la corporeità. La corporeità femminile, che è quella che io poi ho analizzato per molti anni in un tema scomodissimo che mi ha procurato anche non poche perplessità, anche nelle stesse donne, diciamo nell'ambiente degli studi di genere. Questo rapporto donna e guerra, così diciamo assente dagli studi, almeno finché la guerra non si è spostata dai teatri operativi, dalle armi, dai trattati, dai condottieri, ed è approdata a quella che può essere la sociologia militare, dove finalmente anche le donne, che da sempre erano state escluse per due motivi, uno era essenzialmente fisico, e fisico culturale educativo, le donne non avevano la tempra, erano naturalmente biologicamente molto più deboli, non venivano educate alla guerra. L'altro era che le donne sono, per un dato ontologico più che biologico e ontologico, per natura ostili alla guerra. Di fatto gli studi poi ci dicono un'altra cosa, ci dicono che le donne, cioè che la guerra non è solo collegata al fare la guerra, è collegata alle operazioni che io ho sintetizzato nel sottotitolo del libro, cioè al dire, fare, subire. Le donne l'hanno detta, pro o contro, l'hanno fatta, e in questo caso l'hanno quasi del tutto subita, e da qui viene la mia scelta di proporre questo tema, cioè le madri della Repubblica, cioè le donne della Resistenza, perché quasi in modo coevo, mentre loro con il corpo, con il loro corpo offrivano quello che era una possibilità ulteriore di migliore lavoro, come si legge nella mostra, rendevano di più, come i recenti esperimenti che i dipendenti nei luoghi di lavoro ascoltando la musica producono di più, e quindi le donne altrettanto reificate in modo ben più drammatico, quindi cosificate, venivano utilizzate per un migliore rendimento, per sollevare il morale, per tutta quella tradizione che viene sbrigativamente definita come riposo del guerriero in senso lato. La tradizione del bottino di guerra in realtà storicamente dovrebbe essersi fermata al 1400-1500, quando la guerra diventa normata in Europa. Normata vuol dire che le donne ufficialmente non dovrebbero fare più parte dei bottini di guerra, ma così non era. Se noi aspettiamo la conferenza di Vienna del 93, per cui i diritti delle donne sono diritti umani, e diciamo le convenzioni ricordate da Angela Ammirati. Quindi la mia scelta era quella di contrapporre il dopo, e quella di proporre delle donne, le madri della Repubblica, che io ho in questo caso trasportato all'indietro, perché io in uno studio, erano i 50 anni di Donne Costituente, il libro che qua per la Commissione Nazionale Parità avevo chiamato le madri della Repubblica le costituenti, ma man mano nel corso degli anni ho spostato questo termine all'indietro. Le madri della Repubblica non sono le costituenti, peraltro alcune di loro vengono dalla lotta armata, dai campi di concentramento, dalla resistenza, non solo Teresa Noce, ma insomma tante altre, Nadia Sfano, tante altre, ma l'ho spostata all'indietro perché la Repubblica è data da loro, quindi data dalla loro risposta di usare un corpo femminile contro la tradizione che le voleva passive e inabili biologicamente, quindi di giocare contro la loro stessa tradizione, di metterti dentro ad un avvenimento che per tradizione le vedeva massimamente strane. Nella mentalità collettiva, laddove c'è violenza, scenario di guerra, lotta, armi, poco importa che sia una guerra o che sia una rivoluzione. Molto ha importato invece per la storia d'Italia che quella fosse una lotta di liberazione civile rispetto ad una guerra che, diciamo, non si capisce tuttora nei giudizi della storiografia, insomma, quanto sia stata voluta prima e gli italiani si siano pentiti dopo, no? C'è ancora un giudizio un po' sospeso su questo, ma c'è una differenza abissale tra quello che è una guerra e quello che è una lotta di liberazione nazionale. La resistenza offre un problema nel problema, la resistenza che sappiamo perfettamente come le donne, come queste che, di cui è stato difficile recuperare testimonianze di uomini e donne, le donne, anche quelle che avevano partecipato alla resistenza, c'è una specie di vuoto, nel senso che o lo fanno in poche subito dopo, un ottimo esempio di questo è ovviamente l'Agnese va a morire, o lo fanno subito dopo, oppure c'è una specie di vuoto pneumatico, dopodiché si riaffaccia sicuramente dopo il femminismo. Allora c'è una doppia considerazione in questo. La prima è che le donne hanno sicuramente faticato, anche partecipando ad un evento così forte per loro, hanno faticato a percepirsi come soggetto storico degno di trasmissione storica, che era stato ed è un problema per le donne, lo si vede benissimo dal rintracciare pazientemente i documenti, no? Chi lascia un documento ci riflette, ha coscienza di sé, ritiene che quel documento abbia comunque un certo valore, che sia educativo, che sia personale, che comunque sia degno di trasmissione storica. Allora, è noto che le donne nella resistenza, molte di loro hanno risposto: io credevo di aver fatto solo il mio dovere. Dovere è una parola chiave, nel senso che il dovere è quello che ti nobilita moralmente, ma valorizza ciò che fai, perché siccome è un dovere, e le donne ricostruivano, tra virgolette, semplicemente il quotidiano, come se la ricostruzione e continuare un quotidiano fosse un'opera di per sé sottratta al divenire storico, ma questo le donne lo conoscevano benissimo, e cioè l'assicurare la sopravvivenza al quotidiano, partorire e, diciamo, muoversi nel tempo ciclico del quotidiano, ha comportato per loro una devalorizzazione, perché non le ha immesse nella dinamica della storia, quindi di un presente e di un futuro. Per cui le donne si sono sottratte al ricordo, ma anche perché emotivamente molto forte, molto doloroso, quindi hanno cominciato a scrivere dopo che, stranamente ma non tanto, un evento sociale che era la mobilitazione di, diciamo, quasi di massa, non più di nicchia, femminista, ha quasi che si fossero consentite dopo, per un appoggio dato da una forte collettività molto visibile che scendeva in piazza, l'emergere delle loro memorie, e lì l'hanno, molti libri, molti ricordi, dai piccoli ai grandi, sono venuti dopo. La resistenza ha offerto un problema grosso, non soltanto perché non c'erano le loro memorie in prima persona e i loro ricordi, ma perché la storia sociale, anche la storia sociale, quindi non più solo la storia delle elite, ma anche la storia sociale, ha completamente sottovalutato il ruolo e il numero delle donne nella resistenza, perché le ha occultate, così come del resto la stessa Anna Rossidoria l'ha detto, il voto alle donne è stato considerato spesso un non evento, no? Cioè, 150 anni di lotta, questo voto alle donne nei resoconti, nelle ricostruzioni parlamentari, nei documenti, nei libri, eccetera, è stato più percepito, come appunto dice Anna Rossidoria, come un non evento. Allora, c'è un problema di vuoti storiografici, di documenti, di interpretazione rispetto al rapporto donna-resistenza, e numerico. Quando leggevo i numeri, leggevo che questo numero, che era storici, sembrava stragrande, 35.000 donne impegnate nella resistenza, a me che peraltro vengo da una famiglia della resistenza, mio padre era un uomo della resistenza, e dai racconti che io ho sentito crescendo e poi dai testi, questo numero non mi combaciava per niente. Dico, ma come facevano a essere 35.000 se hanno costituito in mezzo Italia il cardine? Non poteva essere. Allora, c'è voluto un allargamento delle maglie della mentalità, c'è esattamente il passaggio verso la sociologia militare, che è quello che considera un ruolo attivo in guerra anche quello subito, offerto, fatto dalla popolazione civile. Ed è là che le donne sono entrate molto di più, perché ecco, le donne sono, ricordiamoci soltanto quello che hanno fatto, ma quello che non era considerato resistenza, e che erano procurare cibo e vestiti, confezionarli, portarli percorrendo chilometri, raggiungere le postazioni, i punti convenuti, procurarsi medicine, consigli medici, avere contatto con dottori, farmacisti, infermieri, trovare rifugi nelle case, in campagna, nei conventi, negli studi religiosi, contatto con parroci, preti, monache, madri superiori, raccogliere denaro, aiutare altre donne sole con figli a carico, rimaste sole, le necessità, le 3.000 per le necessità dei partigiani, e avere contatto e persuadere industriali, commercianti e persone abbienti perché si impegnassero a prestare aiuto economico, e infine le attività militari vere e proprie. C'è un errore di sottovalutazione che veramente mi ha sorpreso nei primi tempi che studiavo questo argomento tanti anni fa, e cioè di come nessuno in fondo si rendesse conto che queste donne per molto, molto, molto meno di queste operazioni rischiavano la vita, che era quello che facevano i soldati in trincea nei campi di battaglia, che rischiavano la tortura, che era quello che facevano gli uomini catturati della resistenza, come gli interrogatori e i resoconti dicono, no? Cioè è forte leggere, cioè mi faceva sempre lo stesso effetto nel leggere i processi alle streghe, l'abbinamento non è casuale, per il femminismo e per la tradizione che comporta, leggere gli interrogatori, leggere i loro suicidi in carcere, leggere diciamo le tecniche di convincimento, tanto per usare un eufemismo, delle donne a parlare, in cui non solo nei campi di concentramento ma durante gli interrogatori, delle tecniche di persuasione, naturalmente faceva parte la violenza sessuale plurima ripetuta all'oscuro. Tra parentesi, parlando con una famosa teologa romana, lei stessa appunto mi diceva che del suo tirocinio, chiamiamolo così, politico, aveva fatto parte proprio la violenza subita dalle squadre fasciste. Allora, altro era passare il confine in questo, cioè passare il confine vuol dire fare queste operazioni apparentemente poco pericolose, in realtà l'abbiamo già detto, era recarsi invece con gli uomini, diciamo nei boschi, a nascondersi in cattività. Questo è uno dei motivi per cui le donne hanno taciuto questa loro militanza, e cioè il fatto che le donne, consigliate qualche volta dalle madri e dalle famiglie, una volta finita la guerra, non si sono mescolate agli uomini che richiedevano ufficialmente il brevetto da partigiano, comunque ispiravano, e sono rimaste ai lati del corteo perché temevano che la loro moralità, le famiglie temevano che la loro moralità, perché avevano fatto una vita promiscua con gli uomini, fosse diciamo contaminata, e nel dopoguerra, che doveva ricominciare normale, il famoso quotidiano, non trovassero più una collocazione. Lì c'è un passaggio forte, che è l'imbracciare le armi, che credo fosse veramente uno dei settori tradizionalmente più estranei alle donne, in cui di colpo la storia ti fa superare lo stereotipo del mansueto, lo stereotipo del dolce, lo stereotipo infermieristico, diciamo, perché nel frattempo le infermiere avevano fatto la loro parte già dalla prima guerra mondiale. La donna salta l'ostacolo morale di rompere con la famiglia, cioè molto spesso la famiglia non capisce proprio per niente questa scelta, quindi c'è l'ostacolo affettivo di rompere con la famiglia e di affrontare una vita da sole, che si sa che dopo disqualificherà, nella completa solitudine, perché non è che andavano nei posti con l'amante, ma andavano nei posti con i partigiani, quindi c'è l'ostacolo di superare, diciamo affettivamente, di dare un grosso taglio. E c'è poi invece un aspetto culturale che loro hanno mescolato molto forte, che invece non appartiene ai soldati. La guerra di liberazione, la resistenza, non è che corri solo dei pericoli, non è che solo vieni torturata, non è che solo vieni violentata, non è che solo tu fai tutte queste operazioni, ma tu cresci culturalmente e metti insieme una serie di operazioni intellettuali, che sono quelli che il soldato invece non fa in trincea o dov'è. E non l'hanno fatto in parte, diciamo, anche gli stessi partigiani, perché le donne ne fanno due di operazioni: una è sicuramente la guerra di liberazione nazionale, ma l'altra è la crescita di emancipazione femminile, che è operazione diversa e aggiuntiva rispetto a quello che hanno fatto i partigiani, no? Quindi c'è un doppio sforzo di liberazione. Si vede chiaramente in Ada Marchesini Gobetti, chiamo Marchesini perché Gobetti è morto a 26 anni a Parigi, malmenato dai fascisti, lei non so perché è rimasta Ada Gobetti, si è risposata dopo, ma è rimasta Ada Gobetti, lei è Ada Marchesini Gobetti, ed è, diciamo, una, siccome l'ho studiato in modo particolare il loro sodalizio, per farvi un esempio storico concreto, loro due hanno vissuto insieme praticamente da bambini, hanno scritto insieme, si sono sposati, hanno avuto questo figlio che lei ha cresciuto ed ha avuto il coraggio di fare la resistenza e di facilitare che il figlio andasse nelle squadre partigiane, lei che ce n'aveva un figlio solo, per cui il marito era stato ucciso, che era Piero Bobetti. Erano cresciuti insieme quasi sovrapposti l'un l'altro, lui la trattava come in maniera molto paternalista, come una ragazzina che doveva crescere, in realtà erano coetanei, per cui correggeva tutte le cose da scrivere, cioè, dopodiché lui a 26 anni viene ucciso, lei rimane sola, rende il suo salotto di Torino un ritrovo di partigiani, finita la guerra, corsi tutti i rischi che questo comportava, anche di perdere l'unico fulcro affettivo che era il figlio Paolo. A un certo punto lei, finita la guerra, attribuiti i primi incarichi politici alle donne, lei va a Torino, entra nel municipio e la fermano e le dicono, e quello gli chiede chi è, perché era vice sindaco, erano denominati vice sindaco, e lei dice, io sono Anna Robetti, e quello gli dice, sì, ma per me lei è una donna, dove va? E quello gli dice, io sono vice sindaco, dice, ma per cortesia. Ma per cortesia, ma non mi prenda in giro. E quello dice no, quello si è sincerato, cioè ha dovuto appurare che stava parlando con un vice sindaco. Allora tu dalla ricostruzione con il quotidiano e dal forte contrasto tra il prima e il dopo, forse tu riesci a capire meglio, diciamo, la portata del cambiamento che le resistenti hanno, diciamo, attuato. Si vedono perfettamente dalle memorie grandi e piccole che le donne, per l'appunto, la guerra l'hanno detta, fatta, subita in tutti i modi, diciamo, possibili e immaginabili, e che ricostruirla come sempre è stato di una difficoltà enorme, perché gli uomini e le donne hanno motivi diversi ma hanno avuto delle rimozioni grandi rispetto a questo, e questo ci ha reso molto più difficoltoso il lavoro. Allora, gran parte di queste donne hanno poi consentito alle altre madri della Repubblica, alle 21 donne su 530 costituenti, di continuare a elaborare e di utilizzare la loro esperienza e di travasarla, diciamo, in quella carta costituzionale, anche se solo due donne hanno lavorato nella Costituzione di 75, di darci quel testo costituzionale a cui io sono assolutamente e strettamente legata, e sono qui anche per difendere questo. Vi ringrazio. Interrompiamo per qualche minuto la nostra scaletta degli interventi previsti per oggi, soltanto per ricordarvi che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, in onda a partire dalle ore di 17, tutti i martedì su Radio Onda Rossa sugli 87.900 MHz. Potete ascoltarci collegandovi al nostro sito www.clrbp.it e cliccando sull'icona in diretta, oppure sul sito della radio, che ricordiamo è www.ondarossa.info. Avete diversi modi per entrare in contatto con noi. Potete telefonare al numero di Radio Onda Rossa, che è 06 49 17 50, fino alla fine della nostra trasmissione. Oppure potete mandarci un SMS al nuovo numero a nostra disposizione, che è il 339 853 6270. Ve lo ripeto in modo che possiate memorizzarlo: 339 853 6270. Bene, tenete conto che il nostro cellulare rimarrà attivo fino alla fine della nostra trasmissione. Per continuare ad elencare i modi con i quali entrare in contatto con noi del CLR, vi ricordiamo anche che potete scriverci una mail al nostro indirizzo, che è contatti@clrbp.it, o telefonarci il giovedì sera al centro femminista separatista presso la Casa Internazionale delle Donne, componendo questo numero 06 68 64 201. Come sempre, il mezzo più immediato che avete per farci sentire che ci siete è quello dei trillini, che gradiamo sempre. Basta fare il numero di Radio Onda Rossa, quindi lo 06 49 17 50, lasciar squillare una volta e riagganciare. Non costa nulla, ma a noi regala sicuramente la vostra compagnia, quindi fatevi sentire, noi siamo qui. Il prossimo intervento sarà tenuto dalla professoressa Monica Sturini, che è docente di letteratura italiana all'Università di Roma La Sapienza ed esperta di scritture femminili, e terrà un intervento sulla letteratura, memoria e trasmissione. Grazie. Intanto, prima insomma, di affrontare le poche cose che volevo dire insomma a voi, vorrei dire veramente un grazie alle donne che hanno permesso, che ci hanno permesso di entrare a conoscenza, in contatto con questa esperienza durissima che è stato il campo di concentramento e la prostituzione nei campi di concentramento. La capacità di affrontare la narrazione, il racconto delle altre donne, del proprio sé, della propria esperienza, qualunque essa possa essere, con una grandissima disposizione all'ascolto, perché ascoltare queste narrazioni straordinarie, per quanto dolorose, è ascoltare se stesse, che fondamentalmente costruire un dialogo con le donne tedesche che hanno fatto questo lavoro, portare qui il loro lavoro e aggiungere il lavoro, diciamo, di preparazione, diffusione, di disposizione fisica di tutto questo, è ricostruire, dare una significazione, risignificare nuovamente, la risignificazione costante dell'esperienza, possibilmente senza perdere l'identità e le soggette che hanno avuto questa esperienza, e fare in modo che possa continuare a essere una parte inscindibile dell'esperienza del quotidiano che ognuna di noi può avere ed ha in diversi campi. Letteratura, memoria e trasmissione, questi tre termini per me sono parole che hanno ancora valore, possono avere ancora valore quando hanno a che fare con situazioni, con esperienze profondamente dolorose. Per rispondere a questo vorrei utilizzare la voce di un'altra donna, un'altra donna che è stata anch'essa al centro della mia esperienza di lavoro con Antonella, che è Tilde Sumi. Non credo di dover dire niente di questa storia della donna che ha accettato l'olocausto volontariamente, morendo ad Auschwitz, secondo quello che dice la Croce Rossa, il 30 novembre del 1943. Né sulla fatica con cui ciò che lei ha scritto è stato tolto dalla cancellazione, no? Ed è stato poi reso finalmente, ma soltanto il 1 ottobre del 1981, patrimonio per noi, cioè elemento di condivisione del sapere. E mi piace citare lei perché penso che lei, forse più di qualsiasi altra donna, per quello che è stata la mia esperienza di conoscenza e di lettura, rende vera una frase che ho spesso pensato e condiviso anche nella mia esperienza politica, cioè che ogni violenza, ogni ferita sul corpo di una donna è una violenza ferita sul corpo di tutte le donne. E direi che la sua scelta di condividere questo destino, di farlo diventare letteratura attraverso la parola, di consegnarlo il più possibile anche grazie ad altri alla memoria e quindi alla trasmissione, incarni molto bene questa profonda convinzione. C'è un passaggio che vorrei condividere con voi che dice: ho spezzato il mio corpo come se fosse pane e l'ho distribuito agli uomini, perché no? Erano così affamati e da tanto tempo. Finisco sempre per tornare a Rilke, è così strano. Rilke era un uomo fragile e ha scritto gran parte della sua opera fra le mura di castelli ospitali e magari sarebbe stato distrutto dalle circostanze in cui ci troviamo a vivere noi. Ma non è proprio questo un segno di buona economia? Il fatto che in circostanze tranquille e favorevoli artisti sensibili possano cercare indisturbati la forma più giusta e più bella per le loro intuizioni più profonde e che poi, in tempi più agitati e debilitanti, queste stesse forme possano offrire appoggio e protezione agli uomini smarriti, ai turbamenti e ai problemi che non trovano forma o soluzione perché ogni energia è consumata dalle necessità quotidiane? In tempi difficili si tende a disprezzare le acquisizioni spirituali di artisti vissuti in epoche cosiddette più facili, ma essere artista non è di per sé abbastanza difficile? E si dice, tanto cosa ce ne facciamo? È un atteggiamento comprensibile, ma miope, e rende infinitamente poveri. Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite. Ecco, io credo che questo concetto di segno di buona economia, no? Che è, come dire, un elemento così tanto legato ad un aspetto extra letterario, per quello che noi intendiamo letteratura, no? Perché è legato al corpo, perché è legato alla fruizione, perché è legato al risparmio, perché è legato al realismo, è invece forse un concetto che ci aiuta bene a capire come il ritrovare parole, il ridare parola alle esperienze, per quanto profondamente drammatiche che ci hanno colpito, possa costituire un elemento assolutamente imprescindibile. Costituiscono questo patrimonio di appoggio e protezione, no? Non è un caso che sia una donna, secondo me, a utilizzare questo concetto, cioè rivisitare quello che può essere la trasmissione, la costituzione della memoria, riappropriandosi di questo, come costituire un quantum che non contenga in sé già tutti gli elementi definiti una volta per sempre, no? Un canone a cui obbedire, quanto un qualcosa che ha la potenzialità di divenire elemento di utilizzo, no? Costituire un appannaggio. Chi lo costituisce non sa che cosa ne faranno gli altri, in che misura potrà diventare appoggio e protezione e rispetto a cosa diventerà appannaggio di protezione. Pur tuttavia è lì, è un elemento che si deposita, che costituisce appunto una potenzialità, è come se una parzialità di esperienza potesse diventare poi invece qualcosa per tutti e per tutte soprattutto, no? Come l'esperienza, anche se soggettiva, individuale, identitaria e parziale, proprio anzi per queste caratteristiche, abbia poi dentro qualche cosa, un potenziale che possa diventare utile per altre. Questo concetto di buona economia mi sembra che nasca da questo, no? Cioè un'economia che viene consegnata, ma che appunto non ha in sé le regole di come debba essere poi usufruita. Il resto, l'altra cosa, cioè il considerare invece quell'economia buona soltanto ad alcune finalità, secondo Attille, è un atteggiamento miope che rende poveri, no? Quindi è proprio, direi, secondo me, una delle forme più chiare in cui invece viene sottolineata la forza della parzialità. Parzialità che diventa, con un'altra bellissima esperienza, balsamo per le ferite. La ferita è il corpo, quindi ritorno a quel concetto che avevo detto prima. La ferita sul corpo di una donna che trova soltanto balsamo in quell'economia che altri hanno depositato nella loro esperienza. E questo quindi è un forte monito, secondo me, anche contro il silenzio. L'esperienza naturalmente ha bisogno di un tempo, di un luogo per essere fatta, per essere comunicata e per essere trasmessa. Il silenzio a lungo è stato, è già stato ricordato, le donne che hanno fatto queste esperienze di guerra terribili l'hanno scritta subito, o sono passati 30, 20, 30 anni, no? C'è stato il bisogno, diciamo, di ridepositare la propria esperienza innanzitutto nella propria memoria e quindi per la lettura. C'è stato bisogno di ridefinire il proprio rapporto con la comunità, no? Quindi riappropriarsi del coraggio di affrontare il giudizio che questo poteva portare. Ancora una volta mi affido alle parole di Attille per ragionare su questo concetto di posto. In una lettera dell'11 agosto del 1943 scrive: in futuro, quando la mia casa non sarà più un giaciglio di ferro, in un luogo circondato dal filo spinato, voglio avere una lampadina sopra il mio letto, così di notte ci sarà luce ogni volta che lo vorrò. Spesso, nel mio dormiveglia, turbinano pensieri e piccoli racconti, vuoti e trasparenti, come bolle di sapone. Vorrei poterli catturare su un pezzo di carta. Quando mi sveglio la mattina, mi sento come dentro un bozzolo. È un ricco risveglio, sai, ma poi comincia a volte una piccola passione. Pensieri e immagini si agitano intorno a me, sono così tangibili e vogliono essere messi sulla carta, ma non c'è nessun posto in cui si possa star seduti con calma. Certe volte passo delle ore a cercarlo. Una volta, nel cuore della notte, una gatta randagia è entrata nella nostra baracca. Le abbiamo messo una cappelliera sul gabinetto e là ha avuto i suoi piccoli. Certe volte mi sento come un gatto randagio senza cappelliera. Quindi il trasformare l'esperienza in parole, anche parole vuote, no? Apparentemente vuote, anzi non dice, ma esattamente trasparenti come bolle di sapore. Ed è bellissimo perché la bolla di sapone è qualcosa attraverso cui si vede, quindi se si è in grado di cogliere il mezzo attraverso cui si vede, la percezione che si ha è di ciò che si vede e di ciò che è in mezzo, no? Quindi viene mantenuta anche l'attenzione alla parola. La parola non può trasformarsi in racconti, quando anche racconti trasparenti come bolle di sapone, se non c'è un luogo, se non c'è un posto, se non c'è quella cappelliera per il gatto randagio. Senza dubbio la scrittura delle donne, la riflessione delle donne su questo è stata grandissima, no? Cito banalmente, ma per dire una madre di tutti noi a cui non possiamo non riferirci, qualcuno una volta ha scritto che c'è bisogno di una stanza tutta per sé, no? Cioè qui siamo un po' al di là della stanza, c'è addirittura bisogno di meno di una stanza, ma c'è bisogno di uno spazio definito, di uno spazio accogliente, la cappelliera per il gatto randagio, perché lo spazio è fortemente identitario, relazionario, storico, cioè ciò che rende, diciamo, tangibile la possibilità di costituzione dell'identità attraverso l'esperienza. E noi sappiamo che forse l'elemento di maggior dolore nei campi di concentramento per le donne, ma non solo, è proprio l'occultamento dello spazio, ovvero sia l'essere disposti per tutti, tutti potevano vedere, no? Non c'è più spazio individuale, il corpo è esposto l'esperienza, anche il corpo negli aspetti più, diciamo così, più privati, no? Non c'è modo di difesa perché il corpo è sotto lo sguardo di chi il corpo controlla. No? Quindi possiamo dire che è portata all'estrema conseguenza forse una condizione che le donne hanno vissuto da sempre, no? Perché da sempre il corpo, lo spazio, il privato delle donne è stato normato ed esposto ad altri, al di là del loro volere. Quindi potremmo dire che una delle grandi lotte delle donne, anche nei campi di concentramento, è stato quello di opporre un luogo ai non luoghi, cioè opporre uno spazio in cui costituire la propria identità con l'esperienza privata, con la trasformazione e elaborazione dell'esperienza in ricchezza privata, contro invece il non luogo, cioè lo spazio di transito, perché erano in transito in realtà dalla prigionia ai forni, dalla prigionia alla prostituzione, dalla prigionia ai bordelli e così via, nei campi stessi. La ricerca dello spazio, lo spazio in cui poter scrivere, in cui costituire memoria, in cui trasmettere. Ecco, diciamo che questo elemento è un elemento, cioè la ricerca spasmodica dello spazio è un elemento che più di altri mi ha fatto riflettere sul rapporto, appunto, che può avere in questo caso la narrazione e sul valore che ha di costituirsi in memoria e sul valore che ha di trasmettere. È una lotta costante contro la cancellazione. Cancellazione che vuol dire certo dare significazione, dare significato all'esperienza dell'altro, ma è opporsi anche ad un'altra sorta di ferita, cioè una ferita fisica, che è appunto la ferita che viene prodotta sul corpo, cioè una ferita interiore, individuale, che rappresenta la rielaborazione della ferita corporea in esperienza. E c'è anche un'altra lotta, che è contro la cancellazione più complessiva dell'esperienza del corpo dalla storia, e dalla storia delle donne, e dalla storia particolare di un momento specifico della storia. Questa è una responsabilità che chiede memoria e trasmissione, ed è certamente una responsabilità che deve portare a decostruire gli stereotipi, abbiamo già utilizzato questo termine, e che deve fare i conti con tutte le forme di cancellazione, no? Un'altra parola che molto spesso rischia di diventare bolla di sapone trasparente, se uno non ci fa una particolare attenzione, adesso si sta diffondendo la parola genere o gender, a me ultimamente la fa venire la parola gay o quella omosessualità, perché nasconde per esempio un'altra parola che non riusciamo mai a nominare, che è quella di lesbica, per esempio, lesbismo, no? Il lesbismo è stato una cancellazione dei campi di concentramento, no? Eppure se ne parla con difficoltà, mentre sull'omosessualità maschile qualcosa è stato detto, no? Sull'omosessualità femminile ancora poco. Questa forma di cancellazione è un'altra contro cui bisogna resistere, no? Appunto perché è l'esperienza che ci riguarda tutte, in quanto è esperienza del corpo. Allora bisogna trovare un modo perché si costituisca un canone di trasmissione che possa permettere anche questo tipo di trasmissione, che possa permettere alle cancellazioni di trovare la loro parola, il loro posto in cui venir narrate e soprattutto che possano trovare una modalità di rivivificazione attraverso l'esperienza delle altre. Vorrei chiudere soltanto citando un romanzo, ed è un libro di Lia Levi di qualche anno fa che si chiama L'amore mio non può. Questo romanzo inizia in questo modo. Mio marito si è suicidato in un giorno d'estate del 1939, 10 mesi dopo aver perso il lavoro per motivi di razza. Si è buttato giù dal muraglione del Pincio come un poeta, anche se in realtà era solo un impiegato di banca. Mi ha lasciato un biglietto e una bambina. La bambina è la nostra bambina e le avevamo messo nome Livia, pensando vagamente a un fiore. E il romanzo si chiude in quest'altro modo. Adesso mi sta diventando tutto tormentosamente chiaro. Quando mi ha scritto quel biglietto, prima di saltare dal muraglione, sì, lui la verità l'aveva già, che io sarei stata in qualche modo capace di salvare quella che allora chiamavamo la nostra bambina, lo sapeva perché i poeti sanno tutto. Rallento il passo. Ora cammino più quietamente perché Andrea mi si è messo a fianco e cammina accanto a me. Ho ancora molto bisogno di parlargli. C'è una cosa precisa che voglio domandargli e che mi sta battendo dentro al posto del cuore. Se lui non avesse fatto quel volo finale, noi tre oggi saremmo stati ancora insieme nella nostra casa vicino a Via Renula e oggi la nostra porta sarebbe stata travolta da soldati tedeschi. A quest'ora potevamo essere tutti ammassati su un camion col telone nero. Andrea si è sacrificato per salvare noi due. Ormai l'ho capito e non c'è bisogno che mi risponda. Ha voluto venirmi incontro per riconsegnarmi intanto l'amore per lui che racchiudeva in sé ogni segreta risposta. Un giorno, quando eravamo tanto giovani, mi ha detto con l'entusiasmo nella voce: «Tu sei il mondo, ma il mondo adesso è ammalato di troppo dolore». A questo no, a questo. Quel giorno Andrea forse non aveva pensato. Non aveva pensato, cioè, che i poeti sanno tutto, ma il non sapere che costituisce la trasmissione. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.